música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina non mi avvarrò di esperti a supporto di quello che direte voi, perché sono convinto che l'argomento del giorno non necessiti esperti. Ogni persona mediamente costituita è esperto dell'argomento di oggi. Oggi parlerò delle persone esteticamente svantaggiate, cioè le persone brutte. Noi siamo tutti belli, noi possiamo essere definiti in quanto belli dentro. Già dire che una persona è bella dentro, termine che sapete che ho in grande disprezzo, significa sorvolare sul fatto che esteticamente non corrisponde a dei canoni di immediato fascino, immediata presa di coscienza di aver qualcosa davanti di desiderabile. Ma è importante essere belli? Beh, essere belli non è che sia importantissimo. Certo, una persona bella e povera può avere comunque delle chance nella vita. Voi dite questa cosa è politicamente scorrettissima, ma in realtà è vera, è concreta. Soprattutto una bella donna, se anche nasce poverissima, può comunque ambire di trovare un uomo che supporti al fatto che la natura l'ha dotata in bellezza e lui deve dotarla comunque in mezzi di sussistenza, ma compensandola anche con amore, con passione, con dedizione. Non voglio fare un rapporto così stretto. Anche un uomo che nasce bello ha qualche vantaggio. L'uomo bello comunque ha una sua sorta di impatto, è molto invidiato dagli altri uomini, ma anche temuto dagli altri uomini. L'uomo bello, secondo un luogo comune molto logoro, normalmente così tronfio, così narciso, così compiaciuto della sua bellezza, che non deve sopperire in nessun'altra qualità e quindi si lascia cullare dal fatto che chiunque lo guardi, uomo, donna, animale, essere inanimato, è improvvisamente preso e colpito dal suo aspetto esteriore. La donna bella normalmente non si sforza molto a acquisire merito e sostanza e pertinenza e coscienza in altre sue qualità, perché per il fatto di essere bella già esiste, già è una dea, già chiunque deve rendere omaggio alla sua bellezza. Oggi in realtà c'è un'inflazione di donne belle per due ragioni. La bellezza segue dei modelli estetici non naturali, non che sia particolarmente affascinato da questo termine naturale, ma oggi abbiamo ricostruito un modello estetico che corrisponde naturalmente ai canoni delle cartelle cliniche dei chirurgi estetici. Esistono donne mostruose che girano in giro che tutti dicono che sono belle. Molte delle grandi dive della televisione in realtà non sono belle. Io dirò che questa mattina che Valeria Marini non è affatto una bella donna, però appare come una sorta di idea, di regina di un canone estetico che rappresenta il nostro paese. Perché? Perché esiste una convenzione riverberata, accelerata dai mezzi di comunicazione di massa, per cui alcune persone in cui sono stati fatti degli interventi drastici, sia proprio dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista della cultura, dell'immagine di questa persona, che sono belle. Ma tutti quelli che stanno fuori comunque da questo roboante, divertente intreccio tra bellezza reale, bellezza presunta, bellezza dichiarata, bellezza interiore, bellezza esteriore, bellezza ricostruita, acquisita, comprata, cosa fanno? Cosa fanno le persone normalmente brutte? Noi siamo tutti normalmente brutti, secondo un termine estetico eccelso. E che spazio c'è per i brutti nella vita? I brutti possono rendersi belli, esistono delle forme di artificio per cui oggi è difficilmente trovare persone brutte. Non voglio entrare nella categoria di coloro che hanno particolari, come si diceva una volta negli annunci matrimoniali, difetti fisici. Quella è un'altra categoria, è chiaro. Il brutto è una persona che non ha necessariamente nessun appeal di tipo estetico. Esistono dei brutti che possono essere pieni di fascino, immaginate quanto siano esteticamente accettabili i più grandi uomini di successo nel nostro paese. Non sono belli, ma il successo, il potere d'acquisto, la fama li rende bellissimi. Ecco, chi non ha nemmeno quello cosa fa? Chi è così sfigato di avere un aspetto normale cosa fa? Come si comporta? E qual è il suo rovello interiore? Perché oggi dire che una persona è brutta è il più grosso e il più inesauribile fonte di complessi di colpa, di tabù, di ipocrite sottrazioni dalla realtà dei fatti. Cosa fanno i brutti? Beh, abbiamo avuto un'accurata lettera scritta dalla nostra ascoltatrice, che si definisce brutta, e ci ha raccontato quello che è il suo quotidiano martirio a confronto con persone che brutte non sono. E in realtà il mondo si rivolge con un sorriso meraviglioso nei confronti di queste persone. Bella dentro. Compro abitualmente del collirio per i miei occhi. Un giorno, mentre passeggio con Linda, la mia amica, lei sente un bruciore ai suoi begli occhi, grandi e magnetici con lunghissime ciglia nere. Entriamo in farmacia. Il farmacista, fisico sportivo con il camice bianco che tira leggermente sui deltoidi, sfoggia una inconfondibile abbronzatura da isole cicladi. Si appoggia al piano e, guardandola negli occhi, le si avvicina fino a sfiorarle la punta del naso e dice con voce bassa da speaker radiofonico che degli occhi così belli brucino è un vero peccato. Le consegna il collirio e le sorride. Ora, se vado con la memoria ai miei acquisti del medesimo articolo, vedo un farmacista che mi dice: «Ecco il suo collirio, signora. Sono 4,50 euro. Grazie, buonasera». Questa mattina non userò eufemismi e vi prego, voi che immagino abbiate esperienza di vita, di bruttezza portata come fardello personale, di bruttezza acquisita come membro affettuoso della vostra famiglia, come sposo, sposa, fidanzato, fidanzata, fratello, sorella, genitori, parente lontano. Spesso andiamo in giro con persone la cui bruttezza ci fa vergognare, o da un altro punto di vista molto narcisista, molto egoista e strumentale, ce le portiamo dietro perché noi, mediamente vantaggiati, possiamo sembrare bellissimi. Quante escono con l'amica cozza o con l'amico mostruoso per avere comunque una pallido barlume di possibilità di essere notati nella propria banale piattezza di persone, né belle né brutte? 800 24 0024. Diciamolo, la non bellezza è quasi un argomento tabù, come le brutte malattie, come la morte. Una madre può dire: «Mio figlio è paurosamente disordinato, mio figlio è intelligente ma non si applica, è per questo che lo bocciano anche quest'anno. Mia figlia è una debole, si fa sempre mettere i piedi in testa». Ma non sentirete mai dire: «Mia figlia è brutta», non si dice, non va bene, non si usa. Quando con gli amici tocchi questo argomento ponendolo sul personale, ti sviano immediatamente. Ti ricordano che però sei un tipo interessante e che hai un carattere stupendo. Sottolineano che hai un'esistenza significativa, che sei bella interiormente e poi guarda quella lì che è bella ma senza cervello. E che la bellezza sfiorisce molto altro. Storie. Giochi di parole per aggirare la verità. Questa letterina che Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti hanno sceneggiato come se fosse un piccolo pamphlet, in realtà non è nemmeno aggiornata rispetto alla cronaca di questa mattina. Dice: essere brutti è come dire avere una brutta malattia, non se ne parla. No, non è vero, è molto più grave. Questa mattina, con roboante gloria, tutti i giornali parlano della dichiarazione di Lino Banfi in televisione, che ha detto: «Mia figlia ha un cancro». E questo dà naturalmente grande evidenza e grande visibilità a questa dichiarazione, quindi non è più un tabù dire: «Mia figlia ha un cancro». Ma avrebbe detto Lino Banfi: «Mia figlia è brutta»? Avrebbe detto qualunque persona abbagliata dalla luce dei propri scarafoni, che si è allevato, che si è portato dietro, che ha reso luce dei suoi occhi, dire: «I miei figli sono brutti». Io direi: guardate i miei figli, sì, in effetti sono bruttarelli, è vero, ma io non lo direi mai, non lo ammetterei mai, piuttosto direi qualunque infamia su di loro. Perché non diciamo che le persone sono brutte? Perché essere brutti è qualcosa di così terrificante? Poi cominceremo lentamente a tirare fuori dalle persone brutte quelli che sono i meravigliosi accessori che rendono la bruttezza soltanto un aspetto esteriore e danno in realtà grande interesse, grande efficienza alle doti che sa sviluppare il brutto. Bisogna guardare oltre le apparenze, si dice. La bellezza esteriore non conta, importa solo quello che sei dentro. E poi le belle sono stupide e vuote e superficiali e non sanno neanche la capitale del Congo e quant'altro. Poco importa se oggi le incantevoli fanciulle dalla pelle vellutata e dalle canoniche proporzioni sono plurilaureate, si occupano di volontariato, parlano tre lingue, leggono i classici in lingua originale e sostengono attivamente la causa per salvare le foche della costa orientale del Canada. Chi invece manca di bellezza genetica apprende col tempo che avrà un interminabile lavoro da svolgere per compensare la scarsa dote naturale. Bella no, ma almeno di classe. dotata di gusto ineccepibile nell'arte del saper vivere, del conversare, almeno simpatica, amica preferita, madre dolcissima, moglie straordinaria, socia affidabile, vicina di casa deliziosa, che possegga perlomeno stile, banale, mai. Persona altruista dotata di umorismo e gran sensibilità, dall'animo generoso e senso di solidarietà, intelligentissima. Che fatica. Ecco il periglioso cammino in salita della persona brutta. Deve essere tutte queste cose. Deve essere colto, deve essere intelligente, deve essere brillante, deve avere stile. Se il brutto è fortunato, che ha un medio potere di acquisto, tutti immediatamente dimenticano il fatto che sia brutto. Quante persone brutte, oggettivamente brutto, non sto dicendo nulla di offensivo, si è brutti, si nasce brutti, ci si guarda al telefono, ci si guarda allo specchio e si diventa brutti. Si vede che il nostro naso è terrificante, abbiamo un volto sgradevole, delle proporzioni corporee disarmoniche, insomma siamo brutti, siamo veramente brutti. Però se abbiamo stile, se sappiamo vestirci, se sappiamo imporre comunque una sorta di aura fascinosa la nostra bruttezza diventa assolutamente un vantaggio. Però che immensa fatica compensare la bruttezza, che immensa fatica essere accettabili quando si è brutti. La bruttezza probabilmente è il gradino meno grave di tutta una serie di disagi, di handicap, di inadeguatezze a un modello di umano normodotato. Essere solamente brutti non significa avere dei grossi problemi, però il brutto comunque deve fare una grande fatica. 800240024, quanto faticate voi ad essere brutti? Perché la gente, o il conduttore televisivo di turno, dice ad un'attrice o ad una bella genetica: complimenti per la sua bellezza. Complimenti di che? Quale particolare merito, pregio o virtù possiede la signorina per avere connotati e proporzioni che ci lasciano senza fiato? Quale responsabilità attribuirle per quei tratti botticelliani? Se voi lo avete capito, per cortesia, trovate 5 secondi per spiegarmelo. Ve ne sarò davvero grata. Esistono due atteggiamenti del bello. Il bello, che in realtà è miracolo della natura, benedizione degli dèi, è frutto eccelso di un disegno superiore, non fa nessuna fatica. Deve soltanto mantenere la sua bellezza, deve soltanto tenere il giusto distacco con il mondo di brutti, perché la sua bellezza non sia contaminata dall'infingardaggine fisica del suo prossimo. C'è il bello derivato, c'è colui che si è aiutato, colui che ha creato una sua bellezza, ma è ugualmente affaticato moltissimo a mantenersi bello. Ma il brutto deve sempre avere comunque una strada in salita. Questa mattina abbiamo fatto un'operazione che raramente facciamo. L'autrice di questo meraviglioso documento, la brutta per eccellenza, colei che ha avuto il coraggio per prima di gettare il velo che mascherava il suo aspetto svantaggiato a confronto del mondo e raccontarci il perilloso cammino del brutto, l'abbiamo al telefono. Buongiorno Silvia. Buongiorno a lei. Ah Silvia, lei è brutta, però stia da parte. È Giorgia, scusate, ho letto male. Giorgia, buongiorno. Buongiorno. Sono circondato dalle brutte questa mattina, mi trovo meravigliosamente al centro di un harem di donne bruttissime, immagino e spero. Giorgia, lei è veramente così brutta? Ma assolutamente no, potremmo dire sono morettina, minutina, piccolina, ricciolina, simpatica. Allora ha barato, ci ha ingannato, si è finta brutta. Certo, potremmo dire tantissime cose di me, benissimo, so fare delle fotografie bellissime. No, parliamo dell'aspetto fisico. Ma certo che non sono bella. Allora, definiamo una scala di cozzaggine da 1 a 10, quanto è cozza lei? Ma non lo saprei dire. No, non lo dica con sincerità, come ci si sente? La sufficienza ce l'avrei forse, sì. Io mi sento cozza 5,5, facciamo così, va. Si sente 5,5? Sì. E sono d'accordissimo con lei col fatto che la televisione oggi ci sta propinando un tipo di bellezza che ci sta portando fuori strada, perché assolutamente non ce la dà il chirurgo plastico. Non è che il seno sospeso o la bocca il doppio di quello che ci aveva dato madre natura o i capelli biondo paglia ci fanno diventare belle. La bellezza c'è e si vede, la bellezza attrae, la bellezza ce l'ha data la genetica. Quando uno comincia a rendersi conto di essere brutto, guardi che noi viviamo poi in un momento molto particolare, la misurazione del canone estetico è molto mutato, ma negli ultimi 7-8 anni, quindi lei probabilmente 15 anni fa, 20 anni fa, se avesse avuto l'età che adesso, sarebbe stata una bella, accettabile e desiderabile donna. Oggi viene considerata da un meccanismo implacabile probabilmente una donna brutta, perché non corrisponde a quel canone di donne gonfiate, allungate, tacchettate, lisciate, iperzigomate, super labiate. Ecco, lei quando ha cominciato a sentire il morso, la diversità rispetto alle belle che vedeva attorno a lei? Guarda, io riflettevo molto su questo e mi chiedo se le altre non belle geneticamente hanno acquistato la stessa consapevolezza così presto come l'ho acquistata io. Io penso di averlo capito in età prescolare, non so, ero molto sensibile alla bellezza e vedevo attorno a me, non so quali codici, come sia stato possibile che io abbia identificato subito quali fossero i bambini e le bambine belle. Nessuno. Cioè lei dicevano ha un musino grazioso o dicevano che bella? Graziosina, bellina, carina, simpaticina, tutte queste cose ina. Ma c'è un proverbio, non ricordo bene, chi è scarafone nella culla poi è bello quando cresce, ma non funziona questo. Però è una questione di parametri. No, resti lì, non se ne vada. Silvia, scusi Silvia, l'ho interrotta, sì. Ma volevo dare la precedenza alla brutta che ci ha dato questo argomento. Anche lei, faccio la stessa domanda, nella scala delle cozze a che punto si mette lei? Ma io mi metto un 4,5, 5. Quindi è cozza reale, non è... Non mi sento per niente... Non lasci perdere quello che sente bella dentro, come è lei? Ma io sono bruttina, insomma, non sono tanto bella, sinceramente. Ma cosa c'ha di particolarmente brutto per cui si sente brutta? Ma io penso il viso un po' sciupacchiato. Beh, lasci perdere il viso, poi dal collo in giù com'è? Insomma, un po' grassottella. Vabbè, può piacere quello, no? Ma insomma, forse ora sto un po' esagerando. Ma proprio cilindro di grasso o potrebbe avere delle parvenze di piacevolezza? Ma io penso di avere delle parvenze di piacevolezza. Cioè, lei se si concia bene, a un uomo può fare il suo effetto. Sì. E quindi sì, perché certo. Si dice, allora alzi almeno di mezzo punto? Cioè, 4,5 è quasi no, senza speranza. Perché sono realista e vedo... E qual è il punto forte? Se lei dovesse semplicemente fare un buchino in un muro e mostrare la parte di lei che può ancora suscitare fascino, cosa ci metterebbe? Beh, i miei occhi. Ecco, ha detto che il viso è brutto. Ma gli occhi sono lo specchio dell'anima. Che ce ne facciamo? Nient'altro. No, gli occhi sono importantissimi. Proprio l'espressione degli occhi che parla della verità di quello che noi siamo. Vabbè, faccia come l'iconografia di Santa Lucia, metta in un piattino la foto dei suoi occhi e si copra completamente con un chador, forse si sente meglio? No. Vedi, no, allora sta barando. Ho paura di mostrarmi agli altri. Io sono fiera della mia persona e di quello che sono fisicamente. Vorrei sfatare questo mito del essere belle fuori significa avere tutto nella vita, essere guardate dagli uomini in una certa maniera. Secondo me noi giovani siamo un po' stufi di questo tipo di opinione. Cioè, noi vogliamo vedere le persone per quelle che sono. Siamo stufi di vedere sempre le persone bellissime, perfette. Cioè, la vita reale alla fine non è così. Ecco, Silvia, io devo lasciare la linea all'informazione della borsa. Devo dire che il tempo le darà ragione, perché quelle che oggi considera bellissime vedrà ci sarà un deterioramento naturale, il supporto organico a un certo punto non regge più l'innesto con il materiale inorganico e quindi la carne si ribellerà al silicone e lei rimarrà con la sua bellezza, con le sue carni grassottelle, probabilmente è quello che ancora potrà disporre il mercato di parvenza femminile e sarà lieta e forse anche bellissima. Melog 2.0. Tutti quelli che incontro praticamente mi dicono ogni volta che potrei migliorare se mi vestissi meglio, se mi truccassi, addirittura se dimagrissi. Ma io non voglio farlo, insomma mi piaccio così, non vorrei mettermi in tiro per andare a lezione. A che mi serve? Non mi interessa piacere alla gente. Se gli vado bene così, ok, altrimenti non so proprio cosa farci. A volte ho l'impressione che mi guardi in un modo sprezzante e dicono te sei proprio una sfigata. So di farmi una montagna di problemi per niente, ma questo fatto mi fa davvero sentire a disagio. Sembra che una felpa, un paio di jeans, scarpe da ginnastica e una coda mezza sfatta non vadano bene per apparire in pubblico. Ma io non sono una sciattona, semplicemente mi piace la comodità. Per non parlare del trucco. Se inizi, poi non smetti più, almeno secondo me. Le persone si abituano a vederti così e devi truccarti apposta. Voglio essere come sono e basta. Ecco, questo esempio che abbiamo portato in realtà è un altro sottordine di categorie che vogliamo noi qui elencare. È la cozza compiaciuta, la cozza trascurata. È colei che pone l'accento esclamativo, il segno esclamativo sulla propria cozzaggine. Potrebbe essere una gradevolissima persona, però lei reagisce alla sua inveterata cozzaggine dicendo: ma io mi vesto sportivo, che c'è male? Una felpa e un paio di scarpe di ginnastica, niente di male, ma se il sedere ti arriva a 10 cm da terra è meglio che metti qualcos'altro, un minimo di tacco. Questo non è per avere sempre immagini stereotipate e schiavizzate, ma per gli uomini vale la stessa cosa. Colui che si veste necessariamente male, retro o troppo giovane, giovanilmente per la sua età, perché reagisce così al fatto che è fondamentalmente sformato, quando in realtà potrebbe dare molto meglio di sé. Vi leggo qualche sms, non lo faccio mai, ma questa mattina sono particolarmente virulenti. Beh, innanzitutto io mi sono esposto molto questa mattina, mi dicono: Nicoletti, sei brutto forte, negarlo sarebbe così palesemente falso, sarebbe perfino comico. Certo, sono brutto, ma reagisco a modo mio, curo molto la mia persona. Poi, andando avanti, dice: le vere sfigate sono le ragazze giovani e carine che però sono convinte di essere brutte senza rendersi conto della fortuna che hanno e nascondono le forme. È vero, le ragazze piene di complessi oggi, che appena hanno un accenno di femminilità incipiente, subito se lo coprono, se lo mascherano o cominciano a digiunare. Appena nati siamo tutti belli e compito ognuno noi mantenersi belli. Magari siamo tutti belli, è detto fino a un certo punto. Poi ci sono le persone in sindrome di Stendhal di fronte a Saviano. Ho visto l'altra sera Saviano, un brutto meravigliosamente affascinante. Certo, una persona con notevoli attributi, ma anche con un apparato meraviglioso di esaltazione attorno a sé, per cui è diventato bellissimo. Poi non mi sembrava particolarmente brutto, conosco molte persone che lo apprezzano, lo hanno saputo in passato apprezzare. Essendo una ragazza carina, mio padre mi ha fatto un complimento, al massimo è arrivata a dirmi: sei un mostro. E questi sono i genitori che veramente implacabilmente educano i figli al fatto che devono cominciarsi a abituare a non essere bellissimi. Molto peggio essere belli, considerati in casa bellissimi, poi il mondo dice improvvisamente: guarda che tu fai schifo. Poi mi chiede un ascoltatore molto saggio di dare un criterio di definizione della nostra scala della cozzaggine. Beh, allora diciamo che cozza 10 corrisponde a Mariangela Fantozzi. L'apice della cozzaggine è Mariangela Fantozzi. Cozza 1 è una donna che in realtà, secondo la media delle nostre accompagnatrici, è meravigliosamente bella. 800240024, l'argomento oggi è una chiara e definita autodenuncia della propria bruttezza. Mi ha detto Fabrizio Intonti prima all'auricolare: non chiamare a raccolta le cozze, se no non ti chiama nessuno. Ma io confido nello spirito e nel senso ironico delle mie ascoltatrici. Mi chiameranno molte ascoltatrici dicendo: io sono cozza, come Elisabetta. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Nel cozzometro lei a che livello si pone? Tranquillamente 8. Guardi che il 10 è Mariangela Fattozzi. Vabbè, è un babuino. Vabbè, ma perché non hai una telecamera davanti? No, davvero è 8, quindi due gradi sotto Mariangela Fantozzi. Sì, ma nonostante questo, ho 53 anni, sono alta 1,57 m, peso 90 kg. Nonostante questo la mia vita è trascorsa, non dico bene, di... Beh, però magari con un bel paio di tacchi si può slanciare un po' la figura. No, ma io quando è il momento uso i tacchi, quando è il momento so mettermi un bel tagliere, quando è il momento adatto mi so esaltare quella mia cozzaggine, esaltare nel senso positivo. Quindi non mi venga a dire che lei non ha avuto prove concrete del fatto che può anche piacere. Nonostante sia un modello estetico non rispondente... Allora, diciamo questo, quando passo per strada si girano tutti, ma non girati in senso positivo. Si girano tutti per dire: mamma mia, questa, ma che vabbè, non può uscire di casa. Vabbè, però per strada lei non ha tempo di atteggiarsi, di creare quell'atmosfera necessaria. Ma quando lei vuole far colpo? quando io voglio far colpo, specialmente, ora ho 53 anni, comunque in età giovanile... Che vuol dire ora? C'è la mia età? Ora che vuol dire? Scusi. No, ora nel senso, i miei pensieri sono più rivolti... Sì, ma non è che lei appende il perizoma al chiodo perché c'ha 53 anni, no, spero. No, assolutamente no, volevo dire una cosa. Io ho degli incontri di lavoro, un'azienda, ho 15 dipendenti, quindi sovente mi capita durante la settimana di avere questi incontri di lavoro in cui è giusto avere anche un certo... visione particolare. Allora lì mi vesto la mattina, mi alzo, mi trucco, mi vesto adeguata all'incontro che devo avere. Io dico una cosa, ho a mio favore ho un sorriso solare, mi ha aiutato tanto. E quindi lei ha il suo fascino, su, non ci faccia credere che è soltanto Cenerentola, che tutta la vita ha soltanto lavorato. Assolutamente no, io la mia testimonianza è questa, vedo molte giovani come l'MS di prima, che sono molto belle e si fanno paranoia perché si sentono brutte. Io all'incontro mi vedo, mi guardo allo specchio, gli occhi ce l'ho, anche se ho gli occhiali, ma ci vedo bene, e vedo che non sono come tante donne della mia età, 53 anni, tutte belle, però io mi guardo, mi piaccio ed esco con questo sentimento. Io anche nei miei incontri di lavoro, insieme a me ci sono persone magari alte, slanciate, però alla fine dell'incontro ho avuto più successo io con il mio sorriso, con il mio modo di propormi, che magari altre seriose tutte sulle sue. Grazie Elisabetta, torno un attimo a Giorgia. Giorgia è la promotrice di questa nostra crociata a ridare gloria, esistenza e centralità alle donne brutte. Giorgia, ha rivisto un attimo il parametro della sua cozzaggine, considerato che Mariangela Fantozzi è al numero 10? Quindi Mariangela Fantozzi è il numero 10. È il top. No, io perché io avevo detto 6 come mi dava una sufficienza. No, diciamo allora... Scendiamo. Sarei al 5. Al 5. 5, sì. Ecco, cosa dà in più la donna apparentemente brutta, apparentemente secondo un metro comune detestabile, quando poi invece è nell'intimità? È vero questa compensazione, è vero, faccio finta di non saperlo, ma lo so benissimo, avendo sempre frequentato donne non appartenenti ai canoni comuni, quindi lo so benissimo, ma ce lo dica lei, cosa dà in più la donna che sa di non essere bellissima quando poi finalmente raggiunge un contatto ravvicinato? Dà in più, è molto difficile comunque questo binomio un po' che sa che esiste bella, stupida e brutta, intelligente, perché io ho amiche... No, ma io non sto parlando di intelligenza, io sto parlando di carnalità. Può compensare, può investire su altri fronti, senz'altro. Investe e può avere lo stesso una vita stupenda, circondata da tutto quello che uno può desiderare. Quindi c'è un analizzare la situazione. C'è un reale impegno maggiore, questo diciamolo, perché va a onore naturalmente di quelle che non sono considerate belle. Voi vi impegnate? Ci impegniamo e diciamo che se un settore è andato male si investe sull'altro e con grande successo anche. Ce la si può fare, si può vivere veramente bene lo stesso. È soltanto la mia una considerazione, non mi sto strappando i capelli perché non sono nata bellissima. Come d'altronde ho delle amiche molto belle che sono persone di alto spessore, intelligenti, colte, spirituali e di grandissimo animo. Di quelle parliamo un'altra volta perché già hanno avuto troppe fortune nella vita, oltre a essere belle anche intelligenti e spiritose. Ecco, riprendiamo a parlare di brutti, finalmente un uomo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Mi scuso che lei si sarà putrefatto nei 20 minuti che ha aspettato al telefono, mi scusi, ma do precedenza alle signore. Problema. Eccomi qua. Lo spazio no, nulla, è suo. Io... Mi dica, scusi. No, lo spazio è suo, dicevo. Ah, grazie. No, io sentivo la trasmissione e non ho potuto non chiamare perché io mi definisco comunque non bello, non brutto, perché quando ero ragazzino, all'età di 13 anni, ho avuto un incidente in bici, sono stato investito e il mio viso ha subito forti danni da questo incidente, ho diverse cicatrici e quindi quando uno parla con un'altra persona, si presenta, la prima cosa che uno guarda è gli occhi sono lo specchio dell'anima. Però scusi Riccardo, gli studenti tedeschi anteguerra che venivano dai collegi di istruzione militare se la facevano volontariamente una bella cicatrice sulla guancia perché era un segno di virilità che hanno fatto in due. Ne ho diversi, da quel lato virile indubbiamente mi ha aiutato. Però dal punto di vista personale, quando mi rapportavo con un'altra persona, magari con un'altra persona di sesso femminile, quando sei ragazzo, non è facile presentarsi come una persona semi sfigurata in volto, e quindi ho dovuto crearmi, come dire, in quel guerriero dentro di me, ho dovuto crearmi una personalità. Una Ma non poter raccontare, non so, un duello all'arma bianca con terribili nemici, sempre, ci sono sempre delle motivazioni eroiche. Poi le leggende dietro di me si sprecavano, sono stato chiamato l'immortale per molti anni, visto l'incidente che avevo avuto. Però appunto, indubbiamente, il non essere bello, quindi non poter star lì seduto e guardare il mondo che viene davanti a te, ti forma dentro di te, ti dà quella capacità, ti deve dare quella forza per trovare altre caratteristiche. Infatti io adesso faccio l'agente di commercio, quindi io sono la faccia dell'azienda o delle aziende che seguo, e sembra un po' un paradosso, ma in me probabilmente più che la faccia cercano quella professionalità, cultura, quella voglia di fare, quell'essere, cercare di essere comunque bravo, preparato, il migliore, mi ha permesso di superare questo ostacolo. Quindi la chiamano il terribile Scarface, i suoi colleghi? Può essere, non lo so, molte volte non confessano cosa dicono dentro di me. Ma saranno tutti invidiosi. Guardi, per un uomo, noi abbiamo questa grande fortuna, e forse è una delle maggiori fortune di essere nati uomini, che possiamo anche permetterci di non essere belli, e qualcuno ci trova sempre interessante, troviamo sempre qualcuno che ci trova interessante. E non sempre accade questo anche per le donne. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Allora, innanzitutto definisca il livello di cozzeria prima di parlare. Per i canoni moderni... No, secondo il nostro cozzometro, di cui Mariangela Fantozzi è il numero 10. Ma 4, va? Ah beh, 4. Sarei stata una splendida donna di Rubens, probabilmente. Beh, 4 è... Ho sbagliato secolo! Ah, perché soltanto per l'abbondanza delle forme si definisce brutto? No, io sono più bassa della media nazionale italiana, che è tra le più basse europee. Tutti mi dicono, ma tu non sei bassa, sarai... 1,65 m. Invece? 1,56 m. Sono una falsa bassa. Sì, però esistono, guardi, proverbi, alcuni anche innominabili, che sì, non posso dire. La botte piccola. La botte piccola, ma c'è anche donna nana tutta tana. Cioè adesso ce ne sono tanti. E quindi... Ma comunque la bruttezza o la bellezza è veramente come ti vedono gli altri. A me mi sono capitate delle cose nella vita. Io ne ho fatto proprio, tra l'altro si aggrava dal fatto che io invece ero in una famiglia di alti, con una madre bellissima, proprio il massimo della fortuna, diciamo così. Mai avuto complessi, ringraziando Dio. Quindi non avendo avuto complessi, avrà avuto anche una vita sentimentale intensa, immagino. Ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito a 15 anni e mezzo, pure lui tutt'altro che uno splendore. Siamo stati felicissimi, tuttora siamo una coppia affiatatissima, mai lasciati, mai cosati, contenti, felici, abbiamo un bel figlio, quindi la natura si vendica. Guarda, adesso dico una cosa che la farà sorridere. Avevo un amico, dico anche l'origine, calabrese, ma non per questo che sia questo sintomatico di un modo di pensare regionale diffuso, che mi diceva, aveva una moglie abbastanza cozza, cioè guarda, lo sai qual è il segreto? Devi sposarti una donna brutta perché non ti mette le corna. E mi sembrava una cosa, una tale bestialità pensarlo soltanto, ma non bestialità in quanto discriminatorio. Fosse una formula di felicità, uno potrebbe seguirla. È che io conosco donne bruttissime, fedifraghe, fondamentalmente di natura, che ne fanno più di quante se ne possa immaginare. Quindi non è affatto vero che le cozze siano poi di specchiata virtù. No, è una questione di carattere, ovviamente. Però credo che alle volte la non piacenza fisica possa temprare il carattere. Cioè quando tu sei abituata da adolescente, momento di crisi di tutti, che entri in un negozio, io ho avuto un brevissimo periodo della mia vita in cui ho portato la 42 e chiesi un paio di pantaloni, io odio fare shopping forse anche per questo, e quello mi disse, noi non abbiamo taglie per lei, era il 90% delle volte che entravo in un negozio. Sì, ma questo accade, guardi, accade a una qualsiasi donna 46, normale. Quindi... Mia madre a un certo punto della mia vita decise che per aggraziarmi mi doveva mandare a scuola di danza, io me lo ricordo ancora, avrò avuto 6 o 7 anni, entrammo in questa scuola, presente scuola di danza classica, sì, molto austere, questa si tolse gli occhialetti e disse, e lei vorrebbe far ballare quella? E quella ero io. Se avessi la mia carriera è finita quel giorno. E che sport le ha fatto praticare poi? Io poi ho fatto ginnastica artistica a scuola e poi ho fatto male perché sono un elefante. Quando io sciavo mia madre mi riconosceva perché dice, se tu vedi un elefante della danza delle ore che viene giù dalle piste, sei tu. Ma certo, io mi devo dire che pazza. anche il cuore di mamma conforta, è stata una fanciullezza felice, vedo. Anche la mamma sottolineava questo suo aver messo al mondo un'elefantina, probabilmente le sarà molto servito a cementare la sua autostima, però la vedo molto serena e quindi sono contento per lei. Fiammetta. Sono qua, buongiorno. Allora, innanzitutto no, deve dire quello che hanno già detto le sue colleghe, nella scala delle cozze di cui Mariangela Fantozzi al numero 10, lei a che numero si pone? Non rientro in questa scala, mi dispiace. Addirittura, è sotto l'uno? Sì, sotto l'uno, ma anche di parecchio. Però ma allora lei è bellissima, mi scusi. Sì, ancora sì, ringraziando Dio non sono rifatta come parlavate prima con silicone. Ecco, guarda, lei ha detto ancora sì, vedo che ha 45 anni. La prego, non affondi sì. Il suo pugnale nelle mie vizze carni anziane. 45 anni ancora sì. Non lo so, inizio adesso ad esserla bella. No, scusi. Sì, anche perché sicuramente... Scusi, sì. Allora come mai lei ha invaso il terreno delle cozze essendo bella? Per farle ho sentito degli interventi molto belli. Poi l'ultimo intervento è stato qualcosa di eclatante, è stato veramente molto bello. Ragazzi, no. Dall'alto delle sue forme perfette, lei può dirlo, scusi, ma non si vergogna. No, ho chiamato semplicemente perché all'inizio della trasmissione... No, lei perché vuole essere il fiore nel giardino delle cozze, no, scusi. No, Dio me ne liberi, però... Ci dica qualcosa di brutto, mi dica qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto è il fatto di dover comunque... No, qualcosa di brutto di lei, vene varicose, cellulite... No, non c'è. Niente, gambe storte. Ma assolutamente. Pelosa. No, sono stata anche una finalista di Miss Italia quando ero ragazzina, per cui assolutamente no. Però no, l'intervento era rivolto a questo, al fatto che comunque... quando si è soprattutto ragazzini, poi tutti quanti piccoli, ci si trova a dover uscire in compagnie dove comunque ti senti usata, perché poi c'è gente che effettivamente ti usa perché magari riesci a fare da faro, tra Vabbè, virgolette. Non è che a tutti dispiace essere usata. No, non è molto bella questa cosa. Cioè lei diciamo, si è portata un codazzo di cozze dietro che facevano il trenino dietro lei sperando esatto, che rimanessero degli avanzi del suo pasto. Non è bello perché comunque di amicizie vere non esistono, non ci sono, e questo è molto triste. Beh, quando uno è bella è difficile avere amici, signora, le saltano addosso. Ho capito, subito. Ma non è così, perché poi siamo esseri umani anche noi, per cui cioè, non è molto carina questa cosa. Senta, poi... ma le risulta che le donne esteticamente svantaggiate poi in realtà siano delle pericolose concorrenti in quanto compensano in lussuria smodata ciò che la natura non ha loro dato? Sono pienamente d'accordo perché ricordo l'esperienza con mio ex marito, quindi sono pienamente d'accordo su questo. Quindi lei... Mi fermo a dirle questo. Quindi lei, al contrario, non ha bisogno di fare nessuna fatica per compiacere chi le sta accanto? No, ma cioè, non faccio fatica nel senso che, vabbè, io mi sono risposata, vivo con una persona splendida, che mi adora, che io adoro. Cioè, è il nostro mondo, nel senso che comunque noi abbiamo degli amici pochi, molto pochi purtroppo, però abbiamo degli amici veri. Grazie, metterà il filo spinato suo marito intorno a casa, no, se ha una moglie così splendida. Assolutamente, anche perché io lavoro in un mondo prettamente maschile, perché lavoro con un'azienda vitivinicola, quindi comunque parliamo proprio di un mondo... Vabbè, quelli sono persone che si dedicano al bicchiere e non all'osservazione delle belle donne, probabilmente, quindi naturalmente è in un ambiente che si sente sicura e salvaguardata. Grazie signora, ci ha dato questo schiaffo finale, portandoci il suo splendore nel nostro misero, ma meravigliosamente attivo mondo di cozze. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.